Cinzia aveva 12 anni e quel pomeriggio a San Francisco era emozionatissima. Erano le 4:30 del pomeriggio e il papà aveva appena terminato una presentazione in un centro congressi. Come erano d'accordo, lei era stata all'ultima parte della presentazione e adesso si apprestavano a vivere una serata speciale, loro due soltanto. Era mesi che avevano programmato nei minimi particolari tutto quello che avrebbero potuto fare. Stavano per uscire quando il papà incontrò un amico dell'università che non vedeva da tantissimo tempo. Si abbracciarono e Cinzia iniziò un pochino a preoccuparsi nel vedere che stavano già scambiandosi qualche parola dei vecchi tempi gloriosi ormai andati. E così l'amico di papà disse quella frase che tanto Cinzia temeva. Che bello incontrarti, che ne dici se stasera ceniamo insieme? Il papà rispose così: sai che sono proprio felice di averti rivisto, Bob, e credo che una cena di pesce sia veramente un'ottima idea. A Cinzia crollò il mondo addosso, perché erano mesi che avevano programmato nei minimi particolari quella serata. Sarebbero usciti di corsa dal centro congressi senza farsi notare da nessuno, sarebbero andati a Chinatown, fatto qualche compera, mangiato cinese e poi sarebbero ritornati all'hotel. Una bella nuotata in piscina, poi sarebbero saliti in camera, avrebbero ordinato una bella coppa di gelato con cioccolato sciolto sopra, si sarebbero visti un film insieme. Insomma, una serata incantevole che Cinzia attendeva da moltissimo tempo. Guardò suo padre che aveva appena detto che una bella cena di pesce sarebbe stata proprio un'ottima idea e che subito dopo aggiunse: ma non stasera, mi dispiace, perché Cinzia e io abbiamo in programma un appuntamento speciale, non è vero? Le fece l'occhiolino, la prese per mano e se la svignarono sotto gli occhi increduli di Bob, il vecchio amico di papà. Il papà di Cinzia era Stephen Covey, famoso educatore e scrittore americano, e Cinzia, quando raccontò quella storia, disse che sentì in quel momento di essere legata per sempre a suo padre, perché papà, con quelle parole, con quella scelta, con quella decisione, aveva dimostrato che per lui lei era la cosa più importante. Stephen era solito dire così: la cosa più importante è far sì che la cosa più importante rimanga la cosa più importante. E tu cosa avresti fatto al suo posto? Avresti accettato la cena con il timore magari di essere scortese, oppure avresti saputo difendere l'essenziale, la cosa più importante? Se ci è ben chiaro quali sono le cose più importanti, saremo preparati nel momento in cui saremo messi di fronte ad una scelta. E tu sei pronto a difendere l'essenziale e a dire di no alla pioggia di cose superflue che continuamente ci arriva addosso, tentando di distoglierci dalla cosa più importante?